cor che gitta sangue, che a poco mi farà morir, trafitta dal dolor l'anima là. Bella come la luce a me l'accanto, il segreto amor mio, veggo talor. Lei passa sempre in me come uno schianto, con impeto di gioia e di dolor. Giorno non ho mai sperato il segreto fatale, ho chiuso in me ed ella non saprà d'essere amata. Mi vedrà morto e non saprà perché. Seppur la vengo aprir, vorrei le braccia di che l'amo e che il mio cor le do. Vorrei dissarla rapidamente in faccia, ma il cuore mi trema e gli occhi alzar non so. Una ferita in cor che gitta sol.